Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. L'usignolo, perché mi mette allegria, perché lui sta lì e fischia, lui non ci pensa alle storie brutte, lui fischietta, perché ha una visione molto ottimista, perché lui è un ottimista. Fischia e pensa all'amore. Riposa, poi tra un po' ci farà sentire qualcos'altro. Allora, sono arrivate una valanga di dediche, quindi vi dico subito che non riuscirò a leggerle tutte insieme oggi, cioè nel senso che quando voi mi mandate la dedica di sicuro non va il giorno stesso o il giorno dopo, ma magari passeranno dei giorni, perché io sono da solo, non mi posso ancora permettere una redazione. E quindi, essendo da solo, faccio un po' di pasticci, magari non riesco a mettere tutte le dediche che mi mandate in ordine per poterle, insomma è un po' un problema, perché per fare questo lavoro bisogna essere dei professionisti e io purtroppo non ce la faccio a entrare nell'ordine, capito? Uno che non riesce a parlare, come fa poi a organizzarsi bene il lavoro? Non si è capito niente, vabbè. Benvenuti, questo è il cammino di Gigi D'Agostino e io sono appunto quello lì che vi indica una serie di stradine, poi voi ne scegliete una, quella che vi piace di più. Una maggiore conoscenza, una maggiore scioglienza. Che bello è trovarsi qui tutti i giorni alle 18. Ma questa cosa qua che bella è? Cioè, ogni giorno. Bellissimo, tutti insieme, a tempo, ogni giorno. Ma chi se ne frega di quelli là che ci vogliono? Il cammino non si ferma. Ma che cacchio dici questa parte? Che... La stecca. Ah, ma una fecca, ma una fecca. Ma una fecca però si capisce, è una cosa brutta forse. Adesso chiedo, ma... è nara, mana, nara, ah, nara fecca. Ma... una stecca, ha detto una stecca, una stecca, è un contrabbandiere in analisi, ha dei problemi e si lascia andare con la musica, ha anche una fecca, è brutta quella cosa lì, eh? Ogni giorno alle 18 non giochiamo dal vostro salotto. Alle 18. Se non siete al lavoro e non state facendo qualcosa che richieda un'alta concentrazione, mettetevi in piedi e marciate a tempo. La marcia a tempo vi porterà oltre. Vi farà conoscere delle parti di voi a voi sconosciute. Conoscerete il bimbo che c'è dentro di voi. Attraverso la danza potete trovare la persona, il bimbo, la persona, il bimbo. Potete... come durò la frequenza della benevolenza. Ho preparato il disco. Vai così. Era Tresca Corta, un brano sintetico, senza anestetico, deciso e preciso, preciso, preciso, e finisce senza preavviso. Trovate il passo. Siete riusciti a trovare il passo? Uno, due, uno, due, uno, due. E devi cercare il file, eh? Trovato file. Vai, clicca. File manager. Sì, da un po' di anni. È brutta questa. Vabbè. Ah, a me piace. Il titolo di questa è facile, questa la so, questa la so. Passo Folk, questo è il titolo. Artista è Lento Violento Man. E guarda che so. Pensate che il coccodrillo, quando è striscia sulla terra, che è brutto, cioè è proprio una cosa, però comunque quando sta per terra che striscia è lento proprio, cioè che non ce la fa quasi, no? Cioè quasi proprio è fermo. E poi invece in acqua può raggiungere anche i 46 km orari. E un esemplare adulto può pesare fino a 900 kg e arrivare a 6 metri di lunghezza. E la loro coda è il loro timone. Ah, visto quante cose ho studiato. Questo ci ha messo anche un po', perché non è facile. Perché, cioè, fino alla cosa dei 40 quello me lo ricordavo. Poi dopo lì ho dovuto ripassarlo più volte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Capito? Sta campana? Se n'è andato uno? L'abbiamo perso.

canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare, anche solo per cantare. Telecom in Europa. Anno 2004-2005. Italia 36,95 euro al mese, 1,2 megabit al secondo. Germania 21,95 euro al mese, 1,5 megabit al secondo. Francia 15,95 euro al mese, 8 megabit al secondo. Cioè costa un terzo e va 7 volte di più. Anche questo l'ha detto un comico. Sarà sicuramente una battuta, ma a me non fa per niente ridere. Dediche da un anonimo o anonima, non lo so. Vivere senza tentare significa rimanere con il dubbio che ce l'avresti fatta. Dedico lo sbaglio a chi nella vita ci ha sempre provato, anche se è andata male. Sono Marco da Caserta. Voglio ascoltare e dedicare lo sbaglio ai miei amici Nicola, Francesco e Antonio. A Davide dedico lo sbaglio. Che possa seguirti nel tuo cammino per insegnarti ad amare e non a continuare a sbagliare. Viviana. Volevo dedicare lo sbaglio a tutti coloro che saltano in salotto dalle 18. Marco da Torino. Volevo dedicare lo sbaglio a Mary, che con tutta la sua cattiveria nascosta dietro i suoi occhioni mi ha aiutato a capire. Enzo B. Maria, lo sbaglio, da Paolo di Foggia. Dedica da Il Zoro alla sua Zoretta. Titolo, lo sbaglio, qualsiasi versione, becca di questo. Certi problemi non sono un dramma, perché è la vita che li programma. E questa vita mi ha messo in vita, forse quel giorno era impazzita. Certi problemi non sono un dramma. vita che li programma. E se lo fa, sa quel che fa. Chi lo sa, quando è che sbaglia, quando ci dona o quando ci toglie. Chi lo sa, quando è che sbaglio, quando sto solo o con mia moglie. Chi lo sa, quando è che è meglio, se per capire cos'è uno sbaglio. Nessuno sa qual è la soglia per poter dire diamoci un taglio. Chi lo sa se darci un taglio non sia frutto del proprio orgoglio. Non so più qual è il mio meglio se non si scioglie questo groviglio. Su un elicottero. Come si fa a chiamare costruttore di pace? L'articolo 11 della Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra. Vediamo venerdì notte, discoteca Milù, Ivrea, Piemonte, Italia, mondo. Dedicare Silence al mio amore Andrea per dirgli che l'amo più di ogni altra cosa al mondo e che il nostro amore non finirà mai. Tittina 91. Vorrei dedicare Silence a tutte le persone che mi odiano, perché da quando gliel'ho fatta sentire non riescono più a levarsi il ritornello dalla testa. Dryful. Ciao Erma. Silence. La dedico ad Augusta, con tutto l'amore che provo per lei. Michele Dall'Ariano. Vorrei dedicare Silence alla mia stellina. Sulle note di questa canzone ci siamo innamorati e continueremo a farlo per sempre. Da Andrea. Ciao, sono Gigi il Sensitivo. Mo c'è l'aperitivo. Il disco aperitivo di oggi è questo qua.

ci fermiamo a quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Pubblicità. Tra-ra-ta-ta. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Avete mai sentito parlare di quel presentatore che comincia le frasi e poi... anziano di oggi è il disco anziano di oggi è di Modi.